Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Sono le 22 e 48 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Buonasera a tutte, ci siamo anche di venerdì, puntata straordinaria, di solito siamo al mercoledì, però per lavoro questa sera straordinariamente, Rock Wave anche di venerdì. Grazie alla collaborazione, all'intervento, lui ci spiegherà il suo modus sonoro, enorme, bello, interessante, straordinario. Arturo Stalteri, buonasera Arturo. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Arturo, grazie di essere intervenuto, ringraziamo Vannuccio e Rino che materialmente ce l'hanno portato qua direttamente. Grazie a Michele Tosoni in regia, grazie a Roberto Baldi per le telecamere e a Alberto Prisco che è il nostro direttore artistico. La tua vita musicale parte dal 1974 e arriva fino ai giorni nostri praticamente. Sì. Studi classici innanzitutto, è vero? Assolutamente, sì, studi classici, diploma in pianoforte nel 79, quindi prima di diplomarmi già avevo fatto i primi due dischi di Piero Luner, quindi la classica... Ecco, Piero Luner, fermiamoci un secondo. Già, perché io l'ho dato per scontato. Lui è dato per scontato. Quindi il progressive o no, cosa intendi? Per forza, anche perché per un musicista classico il prog era proprio il modo migliore per avvicinarsi al rock, no? Perché è stato un periodo d'oro quello per la musica progressive in Italia. Sono sorti migliaia di gruppi, la maggior parte poi, devo dire, secondo me ingiustamente dimenticati. E pochi sono quelli che sono sopravvissuti al progressive. Io insomma con molta fatica sono riuscito poi a ricostruirmi una mia linea musicale, ma non è stata costruita a tavolino. Io non ho assolutamente nessun rimorso di prog, cioè io sono felice di quel periodo e penso che appunto sia una musica che ha dato moltissimo e ci sono gruppi che andrebbero ricordati magari secondo me con un po' più di... A me piacevano molto i Latte e Miele, non so cosa dici. Latte e Miele, ma io sempre penso ai Saint Just, ai Saint Just, Jenny Sorrenti, che è una cara bravissima, amica. Bravissima. Era un gruppo, secondo me, che si era ben svincolato da quelle che erano un po' le matrici inglesi e americane, certo, no? Certo. Erano veramente molto originali. E dobbiamo ricordare che il primo album di Alan è stato fatto, non dico sotto l'influenza della sorella, però primo album di... è molto progressive, è molto diverso, decisamente diverso. Poi Sorrenti ha fatto altre cose, sì. Però... il percorso sonoro è stato decisamente lontano, ma all'inizio era così. Sì, era lui, infatti i primi due dischi sono messi nella corrente del progressive. Esattamente, i primi tre dischi di La Casa del Lago, per esempio, di Saint Just, meraviglioso. Vero, bellissimo, con Tito Rinesi, tra l'altro, che è un caro amico che partecipò, Jenny, sono tutti personaggi che ancora sento e ancora vedo per fortuna. Jenny ha trovato poi una sua strada adesso più legata alla musica etnica, alla musica mediterranea, a Napoli. Ma tu hai fatto un disco anche con Jenny? Lei ha cantato due pezzi, ha scritto i testi per due pezzi in un mio disco di qualche anno fa. Sì. Esattamente. Ci siamo ritrovati dopo più di 20 anni. Ma com'era l'ambiente romano nel 74 quando i Piero Luner hanno cominciato a lavorare, a costruire musicalmente? Beh, l'ambiente romano era più portato verso i cantautori, cioè noi infatti siamo approdati alla Hit, che era un'etichetta dei cantautori. Beh, l'etichetta era molto importante, Benditti, De Gregori, esatto, tutti i cantautori. Sono tutti nati lì. Esattamente, tutti nati là, esattamente. E noi eravamo un po' una cosa atipica, solo che... Vincenzo Micocci, appunto, che è stato il grande leader della Hit, era una persona talmente curiosa e talmente esperta dal punto di vista musicale che ha capito che era interessante anche muoversi in un'altra direzione. Lui conosceva benissimo Schoenberg come Schubert, quindi fu lui esempio a proporci Piero Luner come nome, no? Come nome, esattamente. Ispirandoci appunto a Schoenberg, ma alle poesie a cui Schoenberg tra l'altro si era poi ispirato, quindi insomma era sicuramente un produttore molto attento e non ce n'erano molti in quegli anni così, e forse adesso forse ancora meno. Certo, certo. Sì, più che un produttore è un papà per tutti voi, sì, posso dire così. Era un mentore, era un mentore, una, esatto. Era una persona molto difficile poi, con cui riuscì, perché è anche una persona che aveva le sue asprezze, però ecco, è una persona che ti metteva sempre alla prova, però per noi che eravamo veramente dei ragazzini era anche un buon modo per essere sempre stimolati a fare meglio, insomma. Certamente. 1974, due album. Primo è Piero Luner, il secondo è un po' diverso. Tu ami particolarmente il secondo, io amo particolarmente il primo. Che il primo ha delle cadenze folk, secondo me. Sì, il secondo, mentre è un disco un po' lontano dal folk, è un disco veramente di Piero Luner, un po' più duro. Sì, non sì. Più duro nel senso, no, anche, no, anche del termine. Posso dire così? Sì, sì, ma lì ci sono due motivi. Intanto cambia la formazione. Certo. Nel secondo disco arriva una cantante lirica gallese, mi pare. Gallese, esattamente. Infatti, Jacqueline Darby. Che dobbiamo ricordare che assieme a te Gaio Chiocchio è stato Gaio Chiocchio è il membro, cioè sì, il sì, quello no, che no. ha portato avanti il discorso. Assolutamente, Gaio era per lui, per Runera erano una, per lui erano veramente una sorta di emanazione della sua personalità. Certo, purtroppo certo. Gaio, come molti sapranno, se n'è andato tanti anni fa, e, ma lui era, ci tenne, tant'è vero che so che voleva di nuovo tornare in questa avventura alla fine degli anni 90, cioè poco tempo prima della sua scomparsa. Aveva richiamato me, aveva richiamato Vincenzo Caporaletti, che è stato il primo chitarrista di Piero Runer, poi purtroppo non è stato possibile. E senza Gaio per me è impensabile. È come i Nomadi senza Augusto. Sì, assolutamente, cioè non sono operazioni che non possono fare. A parte che è finita un'epoca, e comunque certo. senza Gaio non E cosa ne pensi di, per esempio, per quanto del progress, questo ritorno dei Delirium, per esempio? Guarda, non sapevo nemmeno dei si sono ritornati. Ah, beh, senza chiaramente Fossati. Ma secondo me va bene, cioè nel senso che secondo me queste operazioni funzionano anche nel campo del rock. L'importante è che siano sincere, cioè, sì. se tu dopo 30 anni ti senti quell'entusiasmo, quella voglia di riprendere un cammino che avevi interrotto, va benissimo. Se lo fai perché ormai non si vendono più dischi e quindi magari provi a rimettere su un nome che ai tempi era noto e quindi vendere qualche copia in più, mi sembra molto triste, io non lo farei mai. Tu nei Peronari plurestrumentista, oltre a suonare le tastiere, cosa suonavi? Io suonavo soprattutto le tastiere e qualche volta la chitarra. Anche percussioni qualche volta. Sì, ma quello Timo era, Wavy. Sì, sì, era una mia passione. In fondo il pianoforte è uno strumento a percussioni, certo, per cui mi veniva abbastanza spontaneo. Sono perfettamente d'accordo. E Gaio invece era più un chitarrista, ma era una sorta di Brian Jones dei Fierro, cioè suonava un po' di tutto, dal sitar alla chitarra al clavicembalo, studiava il pianoforte anche lui. E poi appunto nel secondo disco c'era Jacqueline, che era proprio una voce pura, ma una voce secondo me. Come mai avete deciso una voce pura rispetto al primo album, che era decisamente più ancorato su determinate correnti, determinate cose? Volevamo essere più vicini alla denominazione del gruppo, cioè Piero Lunaire, quindi ci sembrava che fosse giusto cominciare a sperimentare anche in campo più atonale, infatti Jackie quello faceva, e poi ci eravamo intanto appassionati molto alla musica tedesca e alla musica di Terry Riley, al minimalismo, e quindi ecco che non potevamo più fare un disco come il primo Piero Runer, che è un disco quasi completamente acustico, molto più spontaneo, forse anche Gudrun è più pensato, è un po' più cervellotico, forse ecco, se dovessi metterci le mani adesso sfronderei un po', c'erano tante idee, pensa che molte cose le abbiamo anche tolte. C'è ancora qualcosa nel cassetto, nel tuo cassetto dell'epoca? Ci sono dei provini, sì, delle cose che noi abbiamo fatto. Ma recentemente io ho letto nella tua biografia, hai riproposto, non recentemente, ma non molto tempo fa, un qualcosa di Piero Runer. In un disco? Sì, un disco tuo, sì. No, Piero Runer, ho riproposto dei nastri, che avevo registrato prima ancora dei Piero Runer. Ah, ancora, prima ancora? Sì, cosa si faceva all'epoca, prima ancora? Beh, io avevo una passione per Il Signore degli Anelli di Tolkien, che esatto. poi è diventata anche un disco anni dopo. Certo, e sì. avevo già cominciato a buttare giù un primo schizzo di quel disco, e sono rimasti questi 15-16 pezzi. Che avevo completamente abbandonato, nel senso che li incisi a casa con un 4 tracce, addirittura prima con un 2 tracce in cui facevo le sovraincisioni in maniera molto molto molto artigianale, e che poi grazie alla MP Records sono diventati un paio di qui presente l'MP Records si aggira nei suoi protagonisti, esattamente. È diventato un disco, e devo dire che ho sai quando senti, dici, ma io facevo quelle cose, però ecco, te l'hai un po' dimenticato. È stata una bella sorpresa, chiaramente sono stati completamente ripuliti, rimessi a posto, perché il suono originale era assolutamente improponibile. Invece secondo me ora sono a un buon livello. Adesso facciamo un piccolo salto, andiamo ai giorni nostri per presentare un momento, dopo ritorniamo e parliamo del tuo excursus sonoro. Okay. Dei giorni nostri è in giro un album di recente e ci vuoi presentare un pezzo, adesso sentiamo nel disco chiaramente il pezzo. Sì, un album che si chiama Half Angels, e io ho una passione anche per la fantascienza e per il fantasy, ed è infatti dedicato a personaggi femminili che nascono da libri o da film di fantascienza o fantasy. C'è Trinity, che viene da Matrix, c'è Galadriel, l'azione degli anelli, c'è Ion Flux dal film omonimo e dal cartone animato omonimo, e poi c'è questa Damatria, che è quella che vorrei farvi ascoltare. Intanto è un disco con pianoforte, violoncello, violino, percussioni e elettronica. È un po' diverso dai precedenti che tu hai fatto. Molto diverso. Molto. Secondo me è anche c'è un piccolo... Non direi un piccolo legame, però una piccola sprazzo di prog momenti. Abbiamo parlato del prog e ritorniamo al prog. E Damatria infatti è dedicata a questo personaggio femminile di un libro che si chiama Trilogia delle Terre Note, un libro di fantasy italiano uscito per Urania da parte di Sergio Valzani, e mi ha colpito molto questa donna perché ha in sé due componenti, appunto un mezzo angelo, cioè una grande forza e poi una enorme fragilità, che poi sono le cose che delle donne noi alla fine ci ci fregano sempre, ecco, diciamo la verità. È proprio questo. Questa finta fragilità. Ok, lo sentiamo allora. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, Rockaway, sempre con Arturo Starteri, Maurizio Calzavara al microfono. Abbiamo parlato dell'ultimo disco. Vuoi citare anche i musicisti? Mentre il disco andava, tu mi citavi i musicisti. Sì, musicisti che, devo dire, veramente senza i quali non avrebbe mai avuto questo... Innanzitutto il titolo, non l'abbiamo ancora detto. Sì, Half Angels. Perfetto. Che vuol dire appunto mezzi angeli, questi personaggi immaginari della fantasia, però che esistono su libri e su film. E c'è Yasuo Ito al violino, una violinista giapponese strepitosa. Lei, tra l'altro, viveva in Italia prima, ora vive in Giappone, ma è tornata apposta da Giappone per far suonare in questo disco, quindi io la continuo a ringraziare. Poi c'è Laura Pirazzuoli al violoncello e Pino Zingarelli, che oltre ad aver fatto un lavoro enorme, registrare tutto il disco, ha suonato tutte le percussioni, ha dato una grande mano all'elettronica e ha missato, ha fatto i suoni, quindi insomma è stato veramente una sorta di jolly irrinunciabile a questo lavoro. Perché hai fatto, tu giustamente hai detto, un disco un po' diverso, un po' lontano dai tuoi dischi soliti? Ma il perché, sai, poi sono cose che succedono senza che tu lo sappia, e meno male. Perché chiaramente sì. È diverso nel senso, ad esempio, che io recentemente mi sono dedicato soprattutto a dischi per pianoforte solo, come esempio Child of the Moon, che è il mio penultimo, quindi dischi fatti in solitudine, e che è bello da una parte perché sei completamente autonomo anche, però sei anche molto scoperto. Lavorare con altri vuol dire anche essere in qualche modo coinvolti, e quindi succede qualcosa che non sarebbe sicuramente successo se stavi da solo. E questi pezzi sono nati, alcuni in effetti per solo pianoforte, poi ho sentito l'esigenza di vestirli in un altro modo, e quindi hanno assunto una fisionomia completamente diversa. Infatti spesso nei concerti, quando non c'è la possibilità di avere il quartetto o il trio, li faccio una versione solo pianistica, chiaramente è un'altra cosa, però spero di metterci sempre, insomma, quel sentimento che io ho provato mentre li scrivevo. Quindi c'è un motivo, cioè il discorso di tournée, tu le fai le tournée chiaramente? Sì, io suono naturalmente. Non adesso, mi dicevi però. No, domani suono a Ferrara. Ah, suoni a Ferrara, sì, esattamente, suoni ancora. Per pianoforte solo, naturalmente, sì. Faccio questo concerto. Pianoforte e basi elettroniche, tra una cosa strana. La mia dimensione poi in effetti è quella del pianoforte, quella del pianista da solo. Da solo. Cioè, c'è una libertà, chiaramente, che puoi avere solamente quando sei. C'è una maggior responsabilità, ma sei completamente te stesso, insomma. Ecco. Puoi giostare come vuoi, praticamente. Sì, puoi giostare, esatto. Con la band è un po' diverso. E certo, a me piace anche molto inventare quando vado dal vivo, improvvisare, anche se non sono un grande improvvisatore, però mi piace potermi muovere liberamente. Chiaramente con un gruppo, quando fai musica classica, esempio, che ho fatto per tanti anni, questo è impossibile fare. Ecco, ritornando al gruppo, quando eri con i Prior Lunaire, improvvisavi oppure avevano determinati schemi da seguire? No, devo dire che noi, soprattutto con il secondo disco, abbiamo improvvisato molto. Non in studio, ma nei concerti ci lasciamo molto andare, magari un pezzo che nel disco durava 5 minuti poteva diventare anche 15. Mentre nel primo, che era un disco più di canzoni, nel senso proprio stretto, sì, esattamente. C'erano poi i testi che erano un po' più, diciamo, rigidi, e chiaramente le occasioni erano meno frequenti. Noi suonammo poco dal vivo comunque, come gruppo. Quindi perché... pochi spettacoli dal vivo. Com'era l'impatto all'epoca, se ti ricordi, nel 74? In realtà poi è il 75. 74, no, abbiamo registrato, ma poi il disco è uscito. Guarda, l'impatto dipende. Abbiamo avuto delle soddisfazioni enormi, abbiamo avuto un momento in cui c'è stato un concerto in cui abbiamo veramente rischiato di essere, si può dire, cacciati. Sì. Perché ci fu questo grande concerto al Palazzo dello Sport a Roma, 30.000 persone, con tanti gruppi. E noi eravamo tra gli ospiti e portavamo delle basi, perché certo, essendo in tre avevamo delle cose, e praticamente cominciamo e si ruppe subito il nastro. Perfetto. Quindi panico totale, e grandi fischi, finché io poi non attaccai un bel assolo al pianoforte e sono diventati applausi. Però abbiamo avuto 5 minuti veramente un po' difficili. Un po' difficili. Ricordo quell'epoca c'era un altro gruppo, non so, beh, sicuramente tutti li ricordi, hanno gli Osana, che avevano una moda particolare di mascherarsi. Sì, è vero, si dipingeva. Ma sono stati i primi in assoluto. È vero. Non è una cosa italiana, è una cosa estera, chiaramente, però loro sono stati i primi. Quell'idea dell'uomo, l'idea è vero, un po' diversa. Poi anche gli Osana avevano un loro suono, che era un suono molto italiano, particolare. Io ricordo Palepoli, era un disco molto difficile. Sì, veramente. Molto sì, interessante, ma molto difficile. Un concept album, praticamente. Sì, sì. Decisamente difficile. È vero, gli Osana, sì. Non so poi se qualcuno mi diceva che stavano preparando qualcosa. Sì, di dicono nuovo, che qualcosa ci sia che bolle in pentola. Il discorso che tu facevi, il ritorno, però un ritorno con una certa voglia di fare. Esatto, quello è importante. Esatto. Non il ritorno per monetizzare qualcosa. Esatto. Insomma, sì, per esserci, per non essere, solo per esserci. Esatto, per esserci, per fare qualcosa. Allora, visto che abbiamo parlato dei Prior Lunaire, a me questo disco di Prior Lunaire, il primo, piace particolarmente, abbiamo scelto la traccia numero 2, perché è una traccia... No, sì. Allora, facciamo dopo quella, ok. Allora, prima torniamo all'inizio. Torniamo indietro all'inizio. Prima ancora di Prior Lunaire, esatto, prima di Prior Lunaire. hai scelto quella tassa numero 15, mi pare, di quel disco. Sì, Gray Evans. Che cos'è? Appunto, in realtà io stavo già lavorando con Gaio, provando i primi dischi, però appunto avendo a casa questo così registratore un po' rudimentale, ma all'epoca sembrava meraviglioso, una Kai che permetteva le sovraincisioni, provai a buttare giù dei pezzi che volevo poi sviluppare per fare un disco dedicato appunto alla trilogia di Tolkien. E quindi completamente diverso da quello che io faccio ora, assolutamente tutt'altra cosa. E questo è un pezzo che io feci solamente con l'organo Farfisa, che è un organo che io amavo bellissimo moltissimo. Io ricordo un ragazzo tempo fa, qualche mese fa, ne ha portato uno e che io non ho più, purtroppo. È bellissimo, una cosa bellissima, è un po' pesa, ma è bellissimo, è infatti, un suono meraviglioso. Infatti io registrai 7-8 organi Farfisa e feci questo pezzo pensando un pochino alla musica minimale, un pochino a Mike Oldfield, lo devo ammettere. Ah, ecco, all'epoca di Tubular Bells, che io adoravo, è infatti. Bellissimo. E il pezzo è The Grey Evans, è dedicato appunto a quello che è l'ultimo capitolo anche del libro della trilogia di Tolkien. Perfetto, adesso lo sentiamo allora. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questi primi nastri. Non erano i tuoi Basement Tapes? Sì, praticamente sì. Certo. Le prime cose che ho inciso, diciamo, in maniera semiprofessionale. Dicevi che avevi 17 anni all'epoca. Sì. Ero giovanissimo, praticamente. Ero proprio un ragazzino. Infatti ero influenzato, si sente un po' Oldfield, si sente il minimalismo che a quei tempi cominciavo ad ascoltare, Terry Riley, insomma. Terry Riley? Come hai scoperto Terry Riley? Grazie a un amico comune. Proprio eravamo a casa di un nostro amico, Ubaldo si chiamava, io e Gaio. E lui disse: sentite cosa ho comprato, Rainbow in Curve There di Terry Riley, che è un disco epocale, e noi siamo rimasti scioccati, ma cos'è, non abbiamo sentito una cosa. Poi diciamo adesso cambia, adesso in realtà non cambiamo mai. Per 20 minuti, e questo alla fine ci ha conquistato, e lì abbiamo scoperto tutto un mondo, appunto Glass, Steve Reich e tutta la scuola. E in Italia è un po' difficile sentire una roba simile. Sì, però a quei tempi, esempio, venivano spesso loro in Italia, sì. Io Riley l'ho sentito spesso a Roma, era sempre ieratico in tutti i sensi, sì, quando sì. Si presentava, si sedeva appunto sì. Con queste sue tastiere, faceva questi happening meravigliosi per ore, era veramente una bella esperienza. E Battiato non era ieratico come lui, però aveva anche lui qualcosa. Battiato tra l'altro è un carissimo amico, una persona che io stimo da morire, che io ho cominciato ad ascoltare già ai tempi di Fetus, che trovo un disco strepitoso. Esattamente, Fetus Pollution. Lui era un provocatore, lui è ancora, cioè una persona assolutamente che ha una competenza e una conoscenza strepito, molto più di quello che, cioè tutto quello che lui butta nelle sue canzoni, questi sprazzi, sono tutte cose che lui ha approfondito e ha letto, e però ha questo enorme senso dell'umorismo e il piacere della vita che lo pone poi al riparo, no, dal diventare un personaggio un po' troppo cattedratico. Questo è vero, io lo ricordo di averlo visto molti anni fa, 50 persone eravamo, lui era seduto su un tappeto rosso, aveva un organetto piccolo e ha fatto Messier le Gladiatore. Ah, fantastico. Che una facciata che non finiva mai, e un'altra facciata la seconda parte, un'altra che non finiva mai. Lui infatti aveva questo modo, cioè assolutamente di un coraggio. Sì, era coraggioso. A un concerto una volta in cui la gente ha cominciato a insultarlo, ti parlo sempre degli anni 70, prima del grande successo, dicendo che lui non aveva alcun rispetto. Lui ha fatto rispetto per chi? Io non devo rispettare voi, io rispetto me stesso. Se voi non volete, andate via. Cioè, è stato perfetto. Cioè, cosa gli vuoi dire una persona? Cioè, con una forza davanti a 200 persone che lo stavano attaccando. Per niente ha vinto il premio Stockhausen. È vero. E mi ha raccontato che lui ha cominciato a studiare musica grazie a Stockhausen, che si arrabbiò perché gli disse: maestro, io non ho mai studiato musica, l'ha fatto assolutamente, lei non può andare avanti senza conoscere la musica. E lui, timidissimo, ha cominciato a imparare la musica grazie a Stockhausen. E ricordo che i dischi suoi, i vinili, non Fetus, ma sulle corde di Ares, erano rarissimi. Erano rarissimi, perché non li comprava nessuno. È vero, della bla bla. È vero, della bla bla, etichetta storica, la bla bla, è vero. Quello è un disco più belli che lui abbia fatto, secondo me, forse, ricordo di Ares. Io sono perfettamente d'accordo con te. Poi ha avuto il grande successo da 1 milione di copie con La Voce del Petrone, e sono cambiate le cose. Però è sempre rimasto, sì, qualcosa, c'è sempre qualcosa di diverso, anche se sono delle canzoni molto appetibili, molto amabili, c'è sempre qualcosa di diverso. Assolutamente. Lui riesce a farlo. Io l'ho detto recentemente che è l'unico artista che io sento da quasi 40 anni che ancora riesce a stupirmi, cioè ancora sento, a parte i Rolling Stones, che io amo più di qualsiasi cosa. Quelli sono un altro piede. E questo è un esempio, anche l'ultimo Inner Sauge. C'è qualcosa che comunque, che quando lo senti rimani comunque incollato alla fonte sonora da cui sta uscendo. E sai cosa ti dico? Tempo fa ho sentito un suo singolo di molti anni fa. Lui aveva fatto Rain and Tears, Lacrime e Piogge in versione italiana. Ah, pensa, no, questo non lo sapevo. E quello, anche se è Lacrime e Piogge, quindi un pezzo molto famoso, molto da classifica, lo rifaceva in modo molto particolare. Sicuramente, nei suoi flair, i suoi famosi. Esattamente, i flair a Telitera, si parla del 1967-68. Quindi ai tempi proprio. Quindi proprio un singolo, sai, un'altra curiosità. Lui aveva pubblicato un singolo che era stato pubblicato, è stato venduto dalla settimana di Mistica. Sai i Plague Gas? Sì, quelli mi ricordo, quelli morbidi. Quelli che sono delle rarità assolute. E aveva pubblicato uno là. E non sapevo nulla di questa cosa. Così. Adesso glielo dirò. Dialogando, vedendo, trovando, aveva pubblicato una cosa di questo genere, incredibile. Una cosa che ha tenuto nascosta. È incredibile, aveva pubblicato sto Plague Gas, cioè sta roba favolosa. Ritorniamo a te, andiamo avanti. Ci fermiamo un secondo e dopo suoniamo, ma ci fermiamo un secondo per il periodo lunare. Bene. Un secondo solo. Tu hai detto, giustamente, il secondo disco mi è più vicino. Io ho detto, il primo disco mi è più vicino perché il folk, soprattutto il folk, l'idea del folk nel primo disco, l'idea di canzoni, ma canzoni per modo di dire. Sì. Com'è nata tra te e Gaio? Ma guarda, il primo disco, devo dire a onor del vero, che è frutto all'80% di Gaio, nel senso che basta guardare la firma. La firma, esatto. E sono quasi tutti i pezzi di Gaio. Infatti io rimasi colpitissimo. Io Gaio lo conoscevo dalle elementari, poi ci eravamo persi, ci ritrovammo alle scuole superiori, al liceo, e lui aveva un piccolo gruppo, aveva un trio, e fece un concerto di fine anno a scuola, e quindi andai a sentire questo concerto, e erano quasi tutti i pezzi suoi. Era un gruppo ad alto di basso, chitarra e batteria, quindi completamente... E io dissi, ma è geniale. E quindi poi lo chiamai in disparte e dissi, Gaio, queste cose non possono rimanere. E così abbiamo cominciato a lavorare insieme, e molti di quei pezzi sono diventati poi in chiave acustica il primo disco di Piero Luner. Quindi quel primo disco è veramente... E Micocci che potenza ha avuto su questo? Micocci è stato strepitoso, perché Micocci non ci ha imposto nulla. Ecco, cioè, quello è importante. Ci ha lasciato fare il primo disco interamente come noi volevamo. E quindi quella è stata una cosa, secondo me, o lo ha convinto talmente appieno il provino che facemmo io e Gaio, poi arrivò Vincenzo in un secondo momento, oppure ha pensato che fosse giusto che noi avessimo la massima libertà. Ricordiamo che Gaio è stato un autore importante per tanti musicisti. Come no, per tantissimi, da Minghi alla Mannoia, a Cocciante, ha scritto dei testi strepitosi in seguito. Però è partito dal progressive. Lui adorava i King Crimson, erano il suo gruppo. È 74, è la seconda fase con Red in poi. Beh sì, noi siamo, infatti noi apparteniamo già alla seconda parte del prog italiano, perché noi usciamo nel 75 e nel 77, quando già stava arrivando il punk, che era poi spazzato via esattamente. Tutto. Famoso album di Talking Heads, 77, non c'entra niente con il punk, però era uno spartiacque praticamente. Sì, è vero, uno spartiacque sicuramente. Allora sentiamo un secondo questo pezzo da computer e dopo... Chiaramente cominciamo a suonare, ok? Va bene. Rock Wave, l'onda del rock. Yeah. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. C'è Agostino Eresia, una new entry anche, Agostino Eresia. Arturo, questo è un pezzo storico, per me, io l'ho risentito dopo un po' di anni, però non è, ma questo è un pezzo che mi fa letteralmente volare. Sì, questo era un pezzo poi tra l'altro. E canti anche in te. Sì, cantavamo io e Gaia. È importante questo. Sì, eravamo le due voci. E qui era, questo tra l'altro era un testo diverso. Il testo vero com'era? L'avevamo dedicato alle vittime del rock, che erano a quei tempi, erano appunto Jimi Hendrix, Brian Jones. Sì, Al Wilson dei Candide, cioè, certo. E quindi il testo appunto era diverso, poi l'abbiamo un po' modificato per renderlo un po' più, siccome il disco era tutto molto sognato, sì, esatto. Allora abbiamo tolto anche questa forma, questo in fondo questo legame con la realtà, però è rimasto sempre un pezzo nel nostro cuore dedicato ai grandi musicisti del rock di quegli anni. Quindi due episodi importanti con i Pirelli e via con la carriera solista. Del 77 il discorso Pirelli termina. Sì, sì, poi in effetti avevamo già cominciato a fare un terzo disco, poi non ricordo bene che cosa è successo, un po' io studiavo molto il pianoforte, stavo per diplomarmi, e la Hit cominciava a sentire il peso di quel periodo che stava cambiando. Infatti il secondo non è mica inciso con la Hit, voi un'altra etichetta mi pare. No, il secondo doveva uscire proprio come RCA. RCA. Esatto, prima come Vista. Vista, e poi Vista per motivi economici è sparita. Poi è fallita. Poi l'RCA, quando lo ha sentito, pensava fosse simile al primo, si sono spaventati. Sì. Ha detto no, noi non lo vogliamo più. E quindi se l'ha ripreso Micocci, che comunque era sempre, diciamo, all'interno dell'RCA. E quindi poi appunto è nato così, ho cominciato un discorso più classico e poi sono tornato alla mia musica. Insomma. Quindi è cominciato la tua musica. All'inizio però era un po' diverso oppure no? Come stile? Allontanarsi dai Pierò non è da allontanarsi da un gruppo e cominciare la carriera solista, com'è stato il discorso? Ma no, non è stato così traumatico perché io avevo già preparato i pezzi per il mio disco mentre facevamo, cioè stavo già lavorando a questo disco durante il secondo dei Pierrot, lo facevo senza pensare poi a far uscire un disco e poi mi sono trovato alla fine che avevo già pronto una quarantina di minuti di musica e quindi per me è stata una sorta di continuazione quasi indolore. Quindi non me ne sono neanche accorto, ecco, anche perché poi ero sempre ero sempre in contatto con Gaio, certo. Che era diventato anche tra l'altro a quel punto un direttore artistico alla IT, quindi lui aveva ascoltato anche il disco, quindi diciamo che era sempre una cosa nostra, ecco. Ho capito. Quali erano i tuoi punti di riferimento all'inizio di carriera, prima di Pierrot Lunaire, amavi molto Oldfield, quindi il minimalismo, poi... Beh, io amavo i Rolling Stones, te l'ho detto da quando avevo... Quelli sono straordinariamente, poi ne parliamo anche di loro. E a quei tempi sì, io trovo mi Genesis tantissimo. La cosa che mi fa ridere molto, di proprio ridere, è che io nei miei ultimi dischi ho messo tantissimo dei Genesis, diciamo come stile, come modo di arpeggiare, e tutti citano Michael Nyman, tutti citano Glass, nessuno si è accorto, o io sono un po' deficiente, non mi sono accorto che faccio altro, oppure i Genesis io li ho amati moltissimo, quelli di Gabriel soprattutto. Sì, parlo, i Genesis esistono ancora secondo te dopo Gabriel? No, dopo Wind and Wuthering, no. Secondo me. E quindi è forse l'ultimo disco di Allo Spartiacque, poi basta. Però. Sì, esatto, quello è ancora legato a quel mondo. Sì. E quindi adoravo appunto Oldfield, Genesis, ma tutto il progressive, anche io amavo molto i King Crimson, i Van der Graaf Generator, ecco. E poi per la classica un amore fortissimo per Schubert e per Chopin, che sono rimasti nel mio Van der Graaf, cosa pensi di Peter Emmy, che fa dischi ancora adesso? Peter Emmy secondo me è un genio, cioè una persona che potrebbe fare dischi fino al 2400, ormai è una specie di cantautore cosmico e può fare qualsiasi cosa, trovo che abbia un talento eccezionale ed è un altro che se ne è sempre fregato, insomma, delle mode e delle classifiche, ma è talmente amato, lui ha un suo pubblico, una sua nicchia di culto che non lo abbandonerà mai. Sì, è vero, verissimo, quando viene in Italia trova sempre il suo pubblico, sempre. Immediatamente, e sì, i dischi ne ha fatti tantissimi, forse troppi secondo me. Sì, è vero, lui ogni idea che ha la mette sì, sul disco, non so come faccia e via. Ci sono questi artisti, è come Frank Zappa, ne faceva tantissimi, molto prolifico, tripli, sì. Soprattutto quadripli anche, però quindi. Tu pensa quanta voglia c'era quindi, no, di comunicare, cioè quante idee che dovevano per forza poi diventare qualcosa di tangibile. Certo, ma anche tu dischi solisti non hai fatti tantissimi, però ne hai fatti anche te. Io ne ho fatti una decina, quindi, in realtà, insomma. Sì, però devo dire diluiti nel quasi corso 30 di anni, sì, perché poi ho avuto un periodo in cui sono stato fermo solo con la classica, ho fatto solo il pianista classico dall'82 all'87, poi ho ricominciato a lavorare, ma io è dal 92 che ho ricominciato a fare dischi. Ma non hai fatto solo il pianista classico, hai fatto molte trasmissioni molto importanti a Rai 3. Radio 3. Sì, perché l'amore per la radio poi è un'altra cosa che è nata quando ero molto piccolo, perché ho cominciato a fare radio a casa addirittura, perché mio padre era un giornalista televisivo, quindi aveva in casa questi risatori semiprofessionali. Io mi divertivo con i miei amici a inventare programmi radiofonici, finché poi all'età di 18 anni, quando sono esplose le radio private in Italia, ho cominciato a collaborare con un po' di radio, per passare poi alla Radio Vaticana facendo solo musica classica, e poi sono approdato a Radio 3 nell'89. Hai fatto tanti programmi a Radio 3? E ne ho fatti tanti, sì, con una excursus di 4 anni a Radio 2, e poi sono tornato sul 3, dove sono tuttora, sempre come collaboratore. È una grande passione che è seconda chiaramente al pianoforte, ma se dovessi farne a meno sarebbe una sofferenza grande. Benissimo, visto che la passione principale è il pianoforte, siamo pronti per suonare qualcosa. Cosa dici, Arturo? Sì, io non era previsto. Non era previsto, non lo so che non era previsto, però a Rockaway succedono anche questo. C'è questa tastiera. Io allora potrei suonarvi un pezzo che è un pezzo dal disco nuovo, Half Angels, però in realtà l'idea, o almeno lo spunto, risale quando avevo 6 anni, quindi proprio è la cosa più antica, capito. Perché si chiama Angélique ed era dedicato a Angélique, la Marchesa degli Angeli. Angélique erano questi film con Michel Mercier, sì, esatto, tratti dai libri di Sergio, certo, Colon, che negli anni 60 uscirono al cinema. E io da bambino vidi per caso, per strada, un manifesto del primo film in cui c'era lei, che era meravigliosa, e mi innamorai pazzamente di questa donna. Andai a vedere il film e lì nacque questo amore. Oltretutto, supportato anche da una colonna sonora molto bella, scritta da Michel Magne, che era un musicista contemporaneo, che però scrisse un tema molto classico, mi è rimasta impressa questa melodia e ho voluto appunto in Half Angels dedicare un pezzo a Angélique, la Marchesa degli Angeli, usando le prime 4 note della melodia originale, poi ovviamente però portandolo dalle mie parti, chiaramente un po' più minimaliste, trasformando. Quindi questo è Angélique, che nel disco è per pianoforte e violoncello, ma che è nato in effetti per pianoforte solo. Perfetto. Proviamo. Vediamo se suona. Vado. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Ci potete sentire e vedere. Potete vedere mentre suona Arturo questo pezzo tratto da un disco di recente uscita, quello, sì, di questo adesso. Half Angels. Sì, questa era una parte, perché poi il pezzo va anche sulle note basse, che qui vedo non riesco a tirarle fuori. Però ho tratto la parte centrale. Non era preparato niente, no. Assolutamente niente preparato. È un piccolo tranello che abbiamo fatto ad Arturo, lui non lo sapeva che c'era la tastiera, però abbiamo deciso così, amichevolmente, sì, abbiamo deciso di fare questo. E io sono molto soddisfatto di ciò, spero anche per te. Ma certo. Ok, allora abbiamo parlato di questo, ritorniamo al discorso della carriera solista. E adesso noi di solito a una certa ora facciamo un giochetto: i 5 dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi dell'avventura, ma è l'isola di Rock Wave. A tuo piacimento, cosa porteresti? È difficile perché sarebbero molti di più. Certo, certo, ma... Ti dico, i primi che mi vengono in mente sono dei miei 3 gruppi preferiti, rimanendo diciamo in chiave pop. Sì, chiave pop. Lasciamo il jazz e la classica. Sì. Cioè. Sicuramente Dire Satanic dei Rolling Stones. Perché Dire Satanic è la risposta a Sgt. Pepper dei Beatles? Ma io non credo, cioè quello è un periodo, nel 67 tutti i gruppi hanno fatto un disco un po' psichedelico, i Rolling Stones avevano già fatto Between the Buttons, esatto, che sì, è precedente a Sgt. Certo. Pepper, che secondo me era il disco che avrebbe portato in maniera assolutamente spontanea a Dire Satanic, per cui io non sono assolutamente d'accordo su questa sorta di botta e risposta fra Beatles e Rolling Stones, era solamente secondo me un modo per vendere i dischi, no? Sì, fare questo è anche vero. Allora, copertina meravigliosa Dire Satanic. Quella tridimensionale. Bellissima, bellissima. E poi c'è She's a Rainbow dentro. C'è She's a Rainbow, c'è Citadel, c'è il pezzo, uno dei pezzi più belli dei Rolling Stones, con il Mellotron di Brian Jones, esatto, che è 2000 anni luce da casa. Esattamente. Tears from Home. Esattamente. Citiamo Brian Jones, che è un personaggio fondamentale per i Rolling. Brian Jones è stato il suono diverso dei Rolling Stones, cioè lui era una persona che qualsiasi strumento aveva in mano riusciva a tirarli fuori, ma lui suonava l'arpa, il sax, il coto, il sitar, il pianoforte, il clavicembalo. Esempio, su Ruby Tuesday, il pianoforte e il flauto barocco sono suoi, sono quello che fa il pezzo. Esattamente, quello che dà il colore al pezzo. Esatto, come il Dulcimer su Lady Jane, certo, o il Mellotron su We Love You, cioè senza Brian Jones quei pezzi non avrebbero avuto lo stesso sapore. È stato il primo ad andare in Marocco, per esempio. E fai poi a fare il primo disco di musica etnica. Esattamente, proprio antelitera rispetto a tutti quanti. Nel 68 lui... Questo è il primo disco. Poi sicuramente porterei Tuck dei Sigur Rós. Ecco, come mai... Sì, addentriamo su una musica relativamente recente, Sigur Rós. Perché i Sigur Rós sono stati una scoperta per me incredibile. Io ho sentito per caso A Getty's Brion, che è il disco del grande successo, a casa di un mio amico, e sono rimasto folgorato intanto dall'ampiezza di queste melodie, da questi pezzi lunghissimi, molto pro in fondo. Sì, decisamente pro. E poi dalla voce di Jónsi Birgisson, che io pensavo fosse una donna all'inizio. È vero, è vero, è vero. Invece non è vero. Invece non è così. E quindi da lì li ho seguiti dopo, ho preso il disco senza titolo. Poi Tuck, io li ho visti proprio quando hanno presentato Tuck a New York, al Beacon Theater, perché andai a vedere i Rolling Stones al Madison Square Garden e la sera prima vidi anche i Sigur Rós. E infatti comprai questo disco e poi ho trovato molto belle anche le cose che sta facendo lui da solo. Jónsi Birgisson sta per fare un disco da solo che si chiamerà Go, ho sentito un primo pezzo, insomma mi sembra geniale. Quindi sicuramente Tuck e Sigur Rós. E poi Radiohead, che sono un'altra mia grande passione, OK Computer penso che sia... Non ti fermi a OK Computer o vai agli ultimi? No, tutto. Tutto, anche tutto. Se In Rainbows mi sembra un passo indietro, un disco un po' più legato al vecchio stile, un po' alla Pablo Honey. Però io penso che la trilogia OK Computer, Key Day, Amnesiac... Cioè non... Straordinario. Sì. E cosa ne pensi dell'idea di fare un disco su web praticamente solamente? Penso che sia stata una bella idea, però che non è andata bene, perché so che hanno avuto, non so, 1 milione di persone che l'hanno scaricato, ma senza metterci un soldo. Sì, questo è vero. Per cui alla fine, purtroppo, sono cose che funzionano fino a un certo punto. Grande promozione e pubblicità, ma vivere così poi diventa impossibile, per cui bisogna i dischi comprarli, diciamolo. Sono d'accordo, però loro avevano dietro... Sì, potevano permettersi. Potevano permettersi, l'ho fatto anche Prince, l'ha fatto. Anche Prince l'ha fatto poi parecchio tempo sì, prima, se non sì, sbaglio. Esattamente. Ed è stato un fallimento, mi pare. Sì, però dopo l'ha rifatto vendendo un giornale inglese. Ah, quindi alla fine... Poi sai, adesso questi sono i 3 che mi vengono proprio in mente. Poi, ad esempio, ho amato moltissimo Illinois di Sufjan Stevens. Ah, bravissimo quello. Che trovo un disco molto bello, molto poetico. Non sono tutti gli stati americani, però. No, lui vorrebbe farli tutti, ma no, ha detto di no. Ha detto che era uno scherzo. Esattamente, era uno scherzo. Michigan e Illinois. Molto bello, sì, molto. E non so se hai sentito il quadruplo disco di Natale. O 6 dischi ce di l'ho, Natale? Ovviamente. Ce l'hai. Io sono un partito per il Natale. Ah, perfetto, hai tu dischi natalizi. Ecco, forse mi hai detto il Natale e mi hai fatto venire in mente il nuovo di Tori Amos. Ecco, quello è bellissimo. Avrei forse portato. Quello è il disco natalizio? È molto bello. Sì, però non è prettamente un disco natalizio, è un disco sulle tradizioni invernali, sì, più che esatto, natalizio. È bellissimo, disco, secondo me. Molto bello, quindi siamo già a 5. Già siamo a 5. Vabbè, possiamo dire un altro. Beh, io metterei Genesis, All in England by the Pound, sicuramente. E Tubular Bells. Questi due vanno portati. Due dischi storici. Sì. Sally England, ricordo che c'era una traduzione italiana di... Sì, Armando Gallo. Di Armando Gallo, esatto. Perché i Genesis uscivano prima in Italia e poi in Inghilterra, perché erano più amati da noi. È vero, c'è Carlo Massarini che li ha lanciati in Italia. È stato e lui. Infatti Gabriel è molto legato all'Italia, loro ancora oggi, insomma, certo, hanno un debito verso di noi. Ma anche gli stessi Van de Graaff Generators. È vero, anche loro. che in Italia hanno più conosciuti che noi in Inghilterra. Sono stati, se mi è consentito il termine, sdoganati da noi. Sono andati in Inghilterra. Sicuramente è vero, è andato e poi così. Two Bells è un disco epocale. È un disco, secondo me, è veramente l'opera. Tu la guardi e dici, ma come è intervenuta? Come fa un ragazzo di 18 anni a concepire una cosa simile? Perché anche solamente mettere insieme i pezzi di quel mosaico pazzesco che è Tubular Bells vuol dire che lui aveva in testa già tutto pronto, capito? Cioè, veramente. Poi ci sono state delle critiche che lui ha fatto, ha ripetuto per tante volte lo stesso Tubular Bells. Ma nel senso anche negli altri dischi? Con titoli diversi. Beh, lui ha ripetuto quel tipo di struttura, esattamente, vero, per i primi tre dischi, però con delle melodie sempre completamente diverse. Sono quindi voglio dire, quello era il suo stile, l'aveva inventato lui. Se permetti, uno potrà anche copiare se stesso. Nel senso che ha visto che un altro. Poi, dopo, in realtà è che ha cambiato completamente, non è riuscito più a cogliere quell'ispirazione. Però è riuscito a ritornare in classifica con quel singolo folcheggiante. È vero, tra l'altro con quella canzone carinissima. Sì, quella con Maggie Reilly. Era folk, sì, però un folk molto accattivante. Però è vero, non erano, quei dischi, ad esempio Crisis, non erano dei brutti dischi. No, era un bel disco, cioè un disco di grande successo, perché c'era quel singolo favoloso. Anche il disco dopo, un po' meno, non, è riuscito non a centrare totalmente l'obiettivo, però è andato avanti. Sì, è vero. È grande, d'altronde bisogna continuare ad andare avanti. No, ma infatti è impossibile pensare di poter avere sempre la stessa ispirazione, anche perché Oldfield, cioè Tubular Bells, è del 70 o del 71, se non sbaglio. Sì. Quindi, voglio dire, anche rimanere a galla per 40 anni è un'impresa. Praticamente ha costruito la Virgin. Sì. È stato lui. Se non c'era lui, non c'era la Virgin, c'è poco da fare. È una cosa straordinaria per un musicista assolutamente sconosciuto, perché assolutamente. All'epoca chi lo non lo conosceva nessuno. No. Poi chiaramente, giustamente parlavamo, grazie alla colonna sonora dell'Esorcista esplode. È vero, poi gli ha dato la grande notorietà. Sì. Bene, questi sono i tuoi sei dischi preferiti. Diciamo di sì, adesso ce ne saranno sicuramente altri, però in questo momento, pensando al pop soprattutto, mi vengono in mente questi. Io ho letto però nelle tue biografie che c'è un po' anche di Klaus Schulz, qualche riferimento. Beh, tutta la scuola cosmica tedesca, Tangerine Dream, Klaus Schulz, i Cluster, anche la scuola un po' più dura come i Fausti, Kahn, gli Amandul, mi sono piaciuti molto. Lì è, devo dire, anche merito di Gaio, che era un grande estimatore, amante, quindi aveva tutti questi dischi e ce li sentivamo, capito, come una sorta di Bibbia della musica sperimentale in casa. È una cosa molto interessante che voglio sapere da te. Che dischi sentivate all'epoca, sì, tra te e Gaio? Cioè, sviluppate determinate cose, determinati progetti, la cosmica tedesca e non solamente la cosmica tedesca. No, noi sentivamo molta musica tedesca, molta cosmica, molto minimalismo, da esempio mi ricordo Einstein on the Beach di Philip Glass o Music for 18 Musicians di Steve Reich, appunto Rainbow in Calder erano per noi una sorta di... E alcuni dischi di Progressive, dai King Crimson ai Genesis, anche ai Curved Air, un gruppo... Sonia Cristina, che poi ho avuto il grande piacere di conoscere. Sì, certo. Grazie sempre a Vannuccio Zanella, che citiamo. Sì, dobbiamo citarli, c'è poco da fare. E hanno fatto i primi tre dischi, erano qualcosa di straordinario. E ascoltavamo anche molto Battiato, devo dire. Ci ha sempre affascinato, ci piaceva molto. E poi, ovviamente, stando alla hit, ascoltavamo in anteprima quasi le nuove cose di De Gregori, Venditti, che come dite abbiamo anche suonato addirittura una volta al Folk Studio, ci siamo divertiti insieme a lui. E quindi il cantautorato italiano di quegli anni, insomma, ci aveva affascinato. Gaio, infatti, era abbastanza interessato, tanto è vero che poi si è rivolto anche un po' verso quell'area dal punto di vista musicale. Cioè, tu hai citato il Folk Studio, ma com'era il Folk Studio all'epoca, visto che ci ha suonato anche Dila? Era un localetto piccolino a Trastevere, tenuto proprio con grande amore, in cui c'era questa salettina con un pianoforte, queste sedie intorno, e tu suonavi e ci suonava chiunque poteva andare a suonare al Folk Studio. Era un bel ambiente. Hanno fatto anche dei dischi incisi lì, insomma, alcuni sono dei monumenti, veramente dei documenti storici. Penso anche a quel chitarrista inglese di cui ora mi sfugge il nome, John Ramborn, che ha fatto un bellissimo disco al Folk Studio. Che secondo me, insomma, io penso che fosse un luogo che ti ispirava, che ti faceva fare delle cose che magari in altri posti non facevi, anche perché eri a Roma in un punto molto bello, in un'epoca magica, con tutte le contraddizioni dell'epoca, perché siamo negli anni 70, insomma. Però insomma era un momento sicuramente straordinario. E non c'era libertà totale, avevo di fare le cose praticamente. Sì, perché era tutto ancora da scoprire, quindi anche le grandi case discografiche avevano voglia di vedere cosa sarebbe successo, magari per un altro per motivi più biecamente commerciali, per vedere fino a che punto queste cose potevano rendere. Però l'idea di pensare che una cosa nuova potesse rendere era già una molto importante. Ora c'è una chiusura totale. Come mai secondo te c'è una chiusura totale? Intanto perché ovviamente c'è una grande crisi, per cui già si pensa che se non si vende una canzonetta è difficile vendere qualcosa di molto più difficile. In realtà è proprio il contrario, forse proprio adesso si potrebbe ricominciare a sperimentare di più. Poi perché per fortuna non c'è più tanto bisogno delle grandi case discografiche, ormai un disco si può fare veramente con pochi mezzi, grazie al computer, grazie a tante etichette indipendenti. Quindi è giusto il discorso delle etichette indipendenti? Assolutamente, le indipendenti sono la salvezza di questo paese, come all'estero anche loro, ma molti artisti anche della musica importante, diciamo, si sono rivolti all'estero. Sì, si sono staccati direttamente dalle grandi etichette e hanno continuato un discorso completamente solitario. Perché costano poco, perché, sì, costano poco. Perché non c'è un apparato che brucia soldi senza alcun motivo con degli incompetenti. Io ho conosciuto delle persone di un'incompetenza nelle major ho pensato, ma come fa questa persona a parlare di musica? Ecco. Ma loro hanno paura, per esempio, se parliamo di musicisti emergenti, musicisti giovani, hanno paura di lanciarli, hanno paura di investire sullo sconosciuto, dicono. Sì, probabilmente perché hanno paura di non avere più un rientro, nel senso che forse, indubbiamente c'è questa crisi della musica che ormai si scarica online o si masterizza praticamente alla stessa qualità sonora dell'originale o quasi, ha tolto una grande linfa, cioè c'è meno interesse a fare un disco. Questo è vero, perché se tu un disco non lo vendi, cioè se io faccio il pane e poi il pane me lo devo dare alle galline, certo. A quel punto non lo faccio più. Esattamente. Però dicono, allora li vendiamo nei concerti. E i concerti però si vendono, perché secondo me i concerti, c'è l'idea di comprare l'evento, cioè tu è come se comprando il disco rivivessi un po' quella serata, no? Anch'io se vado a un concerto magari compro il disco. Certo. Certo. Io li compro in generale perché penso che sia giusto, se non li comprassi io mi darei la zappa sui piedi. Certo. Però il concerto effettivamente diventa un rito del quale fa parte anche poi avere questa sorta di feticcio che deve essere però quello, non può essere un CD masterizzato senza copertina, no. Cioè senza, è veramente brutto, perché secondo me la musica cambia anche suono se tu la senti, cioè nella tua testa se non ha un colore anche il luogo in cui viene raccolta, cambia anche il suono del disco, non so, diventa un po' più grigio. Questo è vero. Pochino, no? Quelle copertine colorate, ad esempio per me Del Satanic dei Rolling Stones ha un colore stupendo anche perché quella copertina è piena di però colori. Adesso che ci sono i CD lo spirito è un po' diverso, perdi la magia della copertina. Sì, non c'è dubbio. Io ricordo le copertine di Roger Dean, degli Yes. Al quale si è ispirato tra l'altro Cameron nel film Avatar. Esattamente. Erano delle copertine che, cioè praticamente lì c'era il disco, c'era il suono, tu già capivi quello che accadeva dentro quel disco. È vero. Sì. E un'altra copertina meravigliosa erano le copertine di Moody Blues. È vero, molto belle, che però invece non rispecchiavano secondo me la musica, che era molto più commerciale, più mossa. Sì, però i primi album dei Moody secondo me erano di più. No, non parlo Night White City, andiamo via Night White City, che è stato ristampato e poi ha avuto successo dopo qualche anno. Sì. Però la trilogia. Sì, è vero, hai ragione, in effetti io sono sempre, non li ho mai ascoltati con grande attenzione, questo confesso che è un po' una mia pecca. Dobbiamo tener conto però, secondo me, che sono stati i primi a inventare i concept album. È vero. Anche prima dei Beatles stessi, secondo me. E loro erano importanti. È vero, chissà che poi non so più nulla che fanno. No, fanno ancora concerti negli Stati Uniti. Sì, ma incidono ancora. Negli Stati Uniti hanno trovato un pubblico che li segue decisamente. Negli Stati Uniti, soprattutto nei paesi tipo Germania, Olanda, sai. Vedi però, da noi c'è un po' la moda, no? Il gruppo che va di moda e poi sparisce, può fare anche il capolavoro assoluto, ma ormai non è più di moda. Esattamente. Questo è brutto, anche nella musica italiana, no? Certo. Cioè, altri artisti del passato per me che hanno fatto cose importanti, io penso che esempio Caterina Caselli, Rita Pavone, Kip 84 hanno fatto dei dischi bellissimi. È un peccato che ora vengano pensati un po' come una sorta di elefanti. Sì, esattamente. Da citare qualche volta così. Questo succede solo da noi. Solo da noi, è vero. Solo da noi. Vedi Charles Aznavour in Francia. Esatto. L'amore che hanno ancora per l'immagine di Dalida, che non c'è più, oppure appunto Aznavour, lo stesso Michel Polnareff, ragazza tutti ricordano per quello. Però cosa ha fatto? Ha fatto mica solo quello, ha fatto tantissimi pezzi. Quindi. Vero, grande artista. Andiamo un altro. Abbiamo un pezzo da disco, mi pare adesso. Sì? Ah? No, beh, ora non suoniamo. Abbiamo deciso. Abbiamo deciso che tu suoni un altro pezzo. Ah, suono un altro pezzo? Esattamente. Però c'è un problema. Allora, questo io speravo che mandasse un disco così, perché non suonano le basse del pianoforte. Forse il timbro che abbiamo scelto non è buono. Potremmo mandare nel frattempo, mentre lo sistemiamo, o il vinile di Ruby Tuesday, se potete, o se no un altro pezzo, il pezzo che avevamo scelto prima da Child of the Moon. Da Child of the Moon, proprio quello. Mettiamo su quello là. Perfetto. che è il penultimo disco, è il terzo è il penultimo disco che hai fatto. A proposito di questo, è un disco di solo pianoforte, tra l'altro ha delle bellissime copertine, bellissimi libretti. Le scelti te? Ci sono i Rolling, sì. No, devo dire, quella copertina lì mi è stata proposta dall'etichetta. Mi è piaciuta molto. E il titolo, tra l'altro, Child of the Moon, è un omaggio ai Rolling Stones. È vero, perché era un vecchio pezzo dei Rolling. Esatto, è un singolo che ho a casa anch'io. Che è un pezzo bellissimo. Deciso. No, i Rolling arrivano sempre. Era dietro Jumping Jack Flash. Esatto, cioè, era proprio dentro quello. Ok, adesso lo sentiamo. E questo è un notturno, infatti, è ispirato alla luna ed è in re maggiore. Va bene, sono le 23:50, va benissimo. Mi sembra che ci stia. No, ancora non ci siamo. Posso dire che ogni notturno ha una tonalità diversa, quindi c'è stata l'ispirazione di Rolling Stones idealmente, però musicalmente ho pensato a Chopin, ovviamente, con tutto il rispetto. Ma Keith Richards, può essere lo Chopin del rock? Assolutamente, non sei d'accordo dubbio, con te? Sì, sì. Benissimo. A pieno. Ok, possiamo andare allora. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, ci siamo? Benissimo. Quindi un pezzo quindi chiaramente per pianoforte, un pezzo possiamo dire classico, un pezzo classico. Sì, assolutamente. Qui l'ispirazione è completamente classica, sì, sì. Nei turni nel rock, quanti ci sono stati secondo te? Notturni nel rock? Rock, proprio nel rock. Se ti viene in mente così. Mi viene in mente qualcosa di Brianino, dei primi dischi. Perfetto, proprio quello. Sì. Come lo giudichi Brianino? Come produttore o come musicista? Allora, io trovo che abbia fatto delle cose meravigliose, geniali, già dai Roxy Music. Sì, era geniale già, in cui, i suoni li faceva lui. Sì, Brian Ferry ha tanto da dire che Brian Eno era uno che parlava tanto e faceva poco, ma dopo la sua dipartita il gruppo non è stato la stessa cosa. E la trilogia che ha fatto negli anni 70 secondo me è geniale, poi i dischi Ambient sono dischi comunque di grande fascino, e come produttore ha sempre messo del suo, ha sempre messo un colore che è suo, secondo me. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, di avere a lui permesso di fare un disco dedicato alla sua musica, per cui ho avuto modo di conoscerlo da vicino, molto rock star, una persona apparentemente molto umile, molto disponibile, però insomma si vede che è uno che tiene al fatto che tu sappia chi è e che ha fatto. E siccome io sapevo tutto di lui, l'ho subito conquistato. Tipo che c'è Jared allora. Sì, ecco, no, Jared penso sia solamente, dicono che sia solamente insopportabile. Ino sì. È comunque una persona, una persona secondo me. E Ino ha prodotto anche l'ultimo disco di Coldplay, che è stato il disco in assoluto più venduto nella storia. Vedi, e riesce anche dal punto di vista di quel periodo, chiaramente. La cosa è riuscita meno bene nell'ultimo degli U2, secondo me, che non ha funzionato granché. Non so se non abbia funzionato o che lui aveva determinate idee da mettere su che non sono state recepite da Bono. Forse sì, forse non c'è più quella magia, quell'intesa. Non c'è più Daniele Maino, non c'è più Joshua Tree. È vero. Vuol dire molto, anche se il disco nuovo degli U2 non è un brutto disco. No, è vero, però non ha avuto, so che insomma non è, ma ormai non c'è più nessun disco, ormai va tanto bene, mi pare. Ha avuto una grande attenzione. Sì, loro pensavano, tipo Guns N' Roses, ti ricordi il disco nuovo di Guns N' Roses, che doveva esplodere in tutte le classifiche mondiali, non è esploso in nessuna parte, quasi. È vero, anche a Guns N' Roses. Perché troppo tempo e troppo tira e molla, troppi anni, sì, no. Il pubblico cambia. E no? Il pubblico si è un po' stancato, secondo me. Però per la produzione Brian Eno, Daniele Anouar, è una produzione straordinaria. Sì, indubbiamente. Io ricordo Daniele Anouar quando ha prodotto No Mercy di Dylan. Ah, è vero, è Daniele Anouar, No Mercy. Ah, vedi, questa è una cosa. Daniele Anouar ha prodotto No Mercy, disco fa. Cioè, Brian Eno, Daniele Anouar, i dischi degli U2, fantastici, ma Daniele Anouar da solo, No Mercy. Ragazzi, non messo un capolavoro. Sì, un capolavoro. Ma addirittura hanno prodotto anche Teresa De Sio, mi pare. Certo. Un disco, forse il disco più bello di Teresa De Sio. Ha prodotto anche Teresa De Sio, sono d'accordo con te. Che era Tropico, se non sono sbagliato. Sì, esattamente. È un altro personaggio che è un po' scomparso musicalmente, Teresa De Sio. Perché secondo te? Ma io recentemente ho visto che ha fatto delle cose nuove, si è rimessa un po' in movimento. Io non so che cosa fosse successo, forse anche lei è così, ha avuto un momento di, possiamo dire, di pausa, no? Di visto pausa, che stava cambiando anche un po' la musica, e lei era legata a un certo stile musicale, forse che stava un pochino cambiando direzione. Ma è una persona con tanto, ha una voce talmente particolare, che sarebbe un peccato che non tornasse, insomma. Poi un ritorno alla grande è quello di Eugenio Bennato, cioè di Edoardo Bennato, che io non ho mai amato. Non hai mai amato Edoardo Bennato? È quello che delle canzoncine di Pinocchio, là, del Gatto e la Volpe? Sì, può essere d'accordo. Burattino senza figli è un disco di un certo livello. Non sei d'accordo? Non ho mai avuto simpatia per Bennato. Non mi ha mai convinto. Ed Eugenio suo fratello? Beh, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Mi sembra un po' più sincero. Sì. Non lo so, questa è una mia sì, no, ci beh, sono stiamo parlando. Per esempio, io ho un'antipatia enorme per Eros Ramazzotti. Non lo conosco, magari è una persona deliziosa, però quando lo sento parlare o sento le sue canzoni, io trovo il nulla. Dicono che ci sono sempre uguali, secondo me. Sì, ma non è senso che non riesco a capire questo grande successo, però ha talmente un successo poi anche internazionale, che evidentemente qualcosa dentro ci deve essere che io non sono riuscito a recepire. Però ecco, ci sono poi delle cose, magari delle cose che vanno a pelle, no? E che non sai neanche ben definire. Ho delle simpatie, una simpatia enorme per Max Pezzali. Ah, ti piacciono gli 883? Lo trovo comunque divertente, geniale, riesce a fare delle cose incredibili, a fare delle metriche che sembrano impossibili. E mi dà un senso di... cioè, trovo che non sia un... magari non comprerei un disco, però quando lo ascolto mi capita magari in radio, mi fermo e lo sento. La programmazione di Arturo in radio, in Rai 3. È una programmazione, credo, spero, abbastanza vasta, varia, sì. Nel senso che intanto la radio, anche Radio 3, è un po' cambiata, nel senso che una volta il conduttore era l'assoluto principe della scaletta, ora siamo in tanti, no, a fare una sorta, c'è una linea di rete, diciamo, una sorta di linea editoriale, però sempre nell'ambito della libertà. Io cerco di spaziare molto, non ho una grande competenza in campo jazzistico, questo lo ammetto perché non l'ho mai seguito molto, per cui chiaramente cerco di programmare le cose che conosco di più. Del rock lo conosco molto, la classica è la mia scuola, è il tuo pane quotidiano, e la musica, anche la nuova musica, la musica cosiddetta di frontiera, il crossover, la musica post-accademica, è la musica in cui tra l'altro credo di muovermi anch'io, per cui mi incuriosisce molto e vado sempre spesso a cercare cose nuove. Bene, non so, vuoi suonare? Se siamo pronti per suonare cosina? Sì. Ecco, proviamo... okay, adesso suoniamo un pezzo. Che pezzo vuoi suonare? Vorrei suonare un pezzo proprio di Gaio, cioè dal primo disco di Piero Runner. Ora questo non lo... spero veramente di ricordarlo, però Lady Ligeia, che era una... cioè lui aveva un grande amore per Edgar Allan Poe, infatti in ogni disco c'era un omaggio a Allan Poe, cioè Lady Ligeia sul primo e Morella sul secondo. Secondo. E questo pezzo spesso lo suono anche in concerto insomma, ho visto che la gente lo ama. Quindi facciamo un omaggio a Gaio. Sì, è un pezzo che ha composto interamente lui, che mi fece sentire un giorno a casa e che poi ho imparato chiaramente per proporlo anche nei miei concerti. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio. È mezzanotte e due minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org. Possiamo sentire e vedere. Oltre a mezzanotte, andiamo avanti oltre a mezzanotte. Ho letto una cosa interessante, adesso mi dici, le tue collaborazioni con Carlo Verdone. Beh, in realtà lì sì, il merito non è mio, ma è di Fabio Liberatori. Appunto volevo citare anche Fabio Liberatori. Fabio è un carissimo amico che ho conosciuto negli anni Ottanta, perché suonammo insieme con Mario Castelnuovo in una tournée, e lui era già uscito dagli Stadio, che gli stavano stretti. Perché Fabio era completamente diverso nel genere, proprio amava tutto un altro tipo di musica, un altro tipo, una persona talmente timida, insomma, proprio non era il suo ambiente. E lui già appunto scriveva per Verdone, e qualche anno fa è successo appunto che un pezzo che avevamo fatto in un suo disco, si chiama The Asimov Assembly, sempre per la MP Records, che citiamo per l'ennesima volta. Dov'è Vannuccio? Dov'è Vannuccio? E Nino, dove sono? Dove sono Vannuccio? Sono lì che sorridono. Sono nascosti. È successo che lui ha fatto sentire appunto uno di questi pezzi a Verdone, e lui ha voluto inserirlo nel film L'amore eterno finché dura, quindi è stata una grazia a Fabio che il pezzo poi è finito lì. Poi nel suo penultimo film, esatto, del 2008, Verdone, esattamente, aveva un episodio in cui c'era un pianista classico, però chiaramente l'attore non sapeva suonare, quindi io ho suonato in realtà quello che si sente nel film, ho suonato Chopin, ho suonato Schubert, io ho suonato Bach, in realtà poi nel film sono altri che suonano, ma le mani, insomma, sono quelli, sono le mie, diciamo. Bellissimo. Il suono originale è il mio, quindi è stato sempre, sempre grazie a Fabio, appunto, che ha proposto a Carlo, che poi ho intervistato una volta per Radio 2 ai tempi di c'era un cinese in coma, ed è una persona di grande competenza musicale, cioè sa tutto. Beh, anche suona una batteria lui. Anche nell'ultimo film, certo, che ho visto due giorni fa, mi è piaciuto molto. Ti è piaciuto, vero? C'è il pezzo di Sylvian e Sakamoto, World Citizen, che è un momento meraviglioso all'interno del film. Lui adora David Sylvian, non so, poi infatti quella volta nella mia trasmissione propose un pezzo di David Sylvian, Surrender, da un vecchio disco. Io mi ricordo, sì, lui suona la batteria, lui è... discorso, quel famoso film cui citava Lucio Dalla, Borotalco. Borotalco, un classico. Sì, il film nuovo di Viverdone è molto bello. Molto bello, mi ha colpito perché è un film malinconico, sì. Un film in cui si ride poco. Ci sono due o tre scene in cui, cioè, la scena da lui, sì, e la Finocchiaro, non, sì, puoi. Certo. Però è bello, è un film importante. Secondo me è profondo, è delicato, e insomma, trovo che sicuramente è superiore alle ultime cose che ha fatto, sì, forse uno dei suoi più belli. Sì, è un film, è un Verdone diverso, quello è diverso, è un Verdone più adulto che si interroga. La figura del sacerdote è bellissima, sì, secondo me. Ma vorresti fare ancora collaborazioni sonore, di colonne sonore, ti interessano? Mi interessa molto. Il problema del cinema è che è una sorta di scatola chiusa, nel senso che è difficilissimo entrare. Io ho fatto qualcosa, appunto, grazie a Fabio con Verdone, ho fatto le musiche per un film muto che è stato poi restaurato e quindi prodotto tanti anni dopo, però l'idea di avere un film tutto mio da poter musicare, secondo me sarebbe perfetto, anche perché la mia musica, io ho sempre immagini in testa, quando l'ultimo disco in realtà è una colonna sonora quasi, certo, no? È immaginato pensando a dei film o a dei libri, quindi mi piacerebbe molto, chissà che non ci riesca un giorno, perché in tarda età. Perché no? Beh, sei ancora giovanissimo. Che trovi il mio Greenaway. Sei ancora giovane, giovane di spirito. Sei ancora giovane. Quello sempre. Esattamente, quello importante. Sì, quindi colonna sonore. Ma che approccio, un musicista rock, che approccio ha con una colonna sonora, secondo te? Ma penso lo stesso che ha un altro. Cioè, io penso che un musicista, quando ha un film, cambia. Lo ha detto anche Morricone, è un'altra cosa. Cioè, la mia musica è una cosa, la musica che faccio per il cinema è un'altra cosa. Non, sono due cose completamente diverse, perché da una parte tu hai un binario che devi seguire, quindi è una schiavitù, ma è anche una grossa ispirazione, perché quello che tu devi inventare ce l'hai già pronto e quindi puoi lasciarti andare alle immagini. Quindi penso che da qualsiasi punto di vista si possa arrivare a musicare un film, sia se si viene dal jazz, dalla classica, dal rock, dalla musica contemporanea. Ma tu, ci vuole fantasia. Ma cioè, tu devi sapere prima il soggetto, ti dicono che com'è il soggetto, poi costruisci il pezzo, oppure no? Io credo che loro ti diano già le immagini, ti diano, okay, già qualche cosa. Sull'immagine tu costruisci. Sull'immagine tu costruisci, o ti dicano, non so, io, oppure magari hanno già un'ispirazione, questa è una scena molto drammatica, questa è una scena in cui c'è molta natura, cioè penso che ci siano anche delle suggestioni. So addirittura che per quanto riguarda Morricone e Sergio Leone, a volte Morricone scriveva prima delle musiche e Leone ci metteva intorno le immagini. Questo era come Bogoli e Battisti, praticamente. Ecco, quindi ecco, è una sorta di interscambio che non è detto parta per forza prima da una persona e poi dall'altra. Sì, che Mogol scriveva il pezzo, poi Battista se lo imparava a memoria, dopo il giorno dopo lo sapeva già a memoria senza avere il testo davanti. Vedi, perché Battisti era un genio. Musicalmente Battisti, come lo definisci? Battisti con Mogol o Battisti con... No, Mene? Battisti. Io sempre sono uno dei pochi che dice che non gli piacciono i testi di Mogol. Mm. Cioè, ho sempre trovato che i testi di Mogol fossero belli perché li cantava Battisti. Ah, ho capito. Perché poteva cantarli solo lui, praticamente. Secondo me sì, perché erano testi, secondo me, che... erano testi un po' misogini, diciamo la verità, insomma, che non mi hanno mai entusiasmato. Tant'è vero che, secondo me, poi, se noi pensiamo ai pezzi di Mogol con altri cantanti, non hanno lo stesso spessore, no, di quelli con Battisti. Mentre Battisti con Panella, comunque, anche se è diventato molto più ermetico, certo, era sempre Battisti, non so dire. Forse perché io, però, essendo un musicista, chiaramente do più importanza alla musica e quindi ritengo che la musica abbia un valore superiore alle parole. Esatto, tu sei musicista, quindi sia già un linguaggio. Ti devo fare questa domanda: i musicisti dicono che Battisti era molto avanti rispetto all'epoca, anche musicalmente, come, sì, scriveva. È vero, ma anche come arrangiava e come registrava. Loro usavano i nastri al contrario, facevano degli esperimenti, usavano degli strumenti. Se tu pensi al 29 settembre dell'Equipe 84, certo, in cui l'arrangiamento è praticamente anche di Battisti, sì, c'ha un suono, c'ha delle sonorità che io non ho ancora capito come loro abbiano fatto. Ci sono delle trovate, o tutte le piste Stereo Equipe del Equipe 84, che è un disco strepitoso. È un disco strepitoso, c'è molto Battisti all'interno, per cui io credo che lui veramente fosse molto avanti. Veniva dal rhythm and blues, se, sì, non sbaglio, certo, che era la sua grande passione. Certo. però poi c'era dentro tutto. Ma aveva suonato con Tony Dall'Ara, con Tony Dall'Ara, esatto. Esattamente. Però una cosa di, tu hai citato l'Equipe, dobbiamo sottolineare una cosa però, che il Vandelli ha introdotto il sitar nella musica italiana. Pensa che una volta, sai che io no, vidi proprio Vandelli, perché c'era un locale vicino a casa mia che si chiamava il Titan, sì, dove andavano un po' tutti, e una volta uscendo da scuola vidi Vandelli uscire dal Titan col sitar in spalla, ed era lui magrissimo con questi capelli, e il sitar, io rimasi folgorato. Ed è una cosa favolosa. E anche a proposito di sitar, George Harrison ha introdotto il sitar, Vandelli l'ha introdotto in Italia, e Vandelli si vestiva, aveva anche loro avevano una macchina, una specie di una Rolls Royce gialla, anche sì, loro è come vero, i Beatles, è vero, erano e avevano molto, anche sì, loro i negozi dell'Equipe come i Beatles. È vero, loro erano molto in, come si può dire, swing in London. Esattamente, no? Esattamente. È uno dei gruppi secondo me più affascinanti, di che poi lui aveva una voce talmente bella. Ed era un grande arrangiatore, c'è sì, poco da fare. Esatto, gli arrangiamenti che mi ha trovato sono molto belli, molto moderni. E Stereo Equipe, tu hai citato un album molto importante, anche Dr. Jack e Mr. Hyde è un album molto importante. Pensa, questo invece non ce l'ho presente. Le due facce, le due facce sue, sono dei pezzi proprio psichedelici. Ma al massimo era un disco suo, come di no Dr. Jack e Mr. Hyde è l'ultimo disco dell'Equipe. Ah, che non, ah, vedi, non però erano le due facce, Dr. Jack e Mr. Hyde, esatto, che convivevano, no? E dobbiamo citare un famoso pezzo di Mamas and Papas che lui ha ripreso, Floating, ti ricordi? L'ha ripreso lui, l'ha arrangiato, l'ha sistemato, l'ha creato. Ma io penso ad esempio alla versione di Stay degli Hollies, infatti resta dell'Equipe, è sì, più bella della versione originale. Sono d'accordo, me. Ma anche Tell Me dei Rolling l'ha fatta molto bene. Bellissima, è vero, rendimi tutto quel che ti ho dato. Bellissima. È vero, perché loro avevano questi impasti vocali anche molto belli. E c'era Mogol che si firmava il testo però. Era e infatti Mogol, è più bello il testo inglese. Era sempre Mogol che firmava il testo, perché una volta, beh, tu lo sai meglio di me, Mogol firmava un sacco di testi. C'è sempre Mogol Phillips e California Dreaming, Mogol Phillips dei Dick Dick. Già, è vero. Altra grande versione. Altra grande versione. Qualcuno ha detto, però, i Dick, rispetto ai nomi di L'Equipe, fotocopiavano. Sei d'accordo? No, io non sono d'accordo. A me le Dick Dick, io esempio trovo che la versione di Se fossi un falegname, Favorite Carpenter dei Dick Dick sia strepitosa, così come L'ultimo giorno di primavera. Sì, ma anche The Weight, che hanno fatto loro il peso, era bellino. Ma anche la versione di Procolarum, di What a Shade of Pale. Certo. Cioè, ecco, forse le Dick Dick facevano molte cover, forse. Sì, ecco, esattamente, facevano molte cover. Mentre l'Equipe facevano un po' tutte e due, e i Nomadi facevano solo musica. I Nomadi facevano delle cover particolari. Forse hanno fatto quel pezzo famoso, famoso, sconosciuto di Elton John, dal primo album. The King of Must Die, te lo ricordi? Ah, certo, era già, è vero, alla, alla bianca. Sì, è vero. Poi i Nomadi fecero quel disco meraviglioso, solo strumentale, sì, con tutti gli strumentali, che si chiama Per quando noi non ci saremo. Esattamente. In cui c'erano delle belle sperimentazioni. Sì, forse i Dick Dick erano, forse erano legati alle cove, alle sì, ai 40, ai 45 al 45 G. Di successo e alla melodia e molto alla melodia, italiana. Esattamente. Sì. Però geniali. Geniali. C'è un pezzo da disco adesso? Sì, per me sì. Beh, facciamolo suonare un'altra volta, mettiamo dopo il pezzo del disco. Quello che cosa suona? Quello che vuoi, a tuo piacimento. Allora, facciamo un velocissimo pezzo da André sulla Luna. Perfetto, proprio da quello. Un pezzettino. Un pezzettino. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. E lo so, lo spirito di Rock qui così mettere in difficoltà. No, assolutamente. Ma, lo so, però quando suoni il piano è tutta un'altra cosa. Dici, eh? Sì, sicuramente. Grazie. E ho letto una cosa molto interessante. Abbiamo parlato di Franco Battiato. Tu, assieme a Franco Battiato, 4-5 anni fa hai fatto anche un programma televisivo. Ho fatto sì due cose con lui. Ho fatto un programma televisivo che doveva tra l'altro andare anche su Rai 2, ma che poi quando è stato visto non è stato più mandato in onda. Mentre è andato in onda su Rai Futura, che era un canale appunto satellitare. Ed è stata un'occasione persa, perché avere un programma di 6 puntate con Battiato che canta tutto il suo ultimo disco e in più ha degli ospiti, suona, canta, parla. Cioè, una cosa straordinaria. Vuol dire non aver capito nulla. Comunque in tutti i casi il programma lo hanno visto in pochi. E io ero infatti il co-conduttore con lui e Sonia Bergamasco, e in alcuni casi ho suonato, ho intervistato altri artisti, ho suonato con lui, l'ho accompagnato in una, insomma è stata un'esperienza bellissima. Poi da lì mi ha chiamato anche a fare una parte nel suo film su Beethoven. Esattamente. E lì sono stato veramente patetico, secondo me. Non è la mia strada. Ma com'è come regista Battiato? Questo per me è che lui è un regista che ti butta allo sbaraglio, cioè lui è una persona che ti dà molta fiducia, però chiaramente tu devi poi a un certo punto essere in grado di supportare questa fiducia. Allora se tu me la dai come conduttore, come musicista, io lì ho un background e va bene. Se me la dai come attore, non avendolo mai fatto in vita mia, mi metti in costume vestito da 1800 e mi dai delle parti da recitare anche un po' complicate, io posso essere un po' in difficoltà. E lui va benissimo, benissimo, poi capito, mi ha lanciato allo sbaraglio e ha lasciato le parti così com'erano. La cosa che mi ha fatto piacere è che ha capito che io ero rimasto un po' scioccato e quindi mi ha permesso di doppiarmi in un secondo momento, di poter studiare meglio la parte vocale. Ho capito, adesso sta facendo un nuovo film, mi pare. Sì, solo che ci ho parlato proprio qualche giorno fa e mi ha detto che gli servono 10 milioni di euro per fare questo film, perché sarà un film in cui ci sarà Handel, ci sarà la musica classica, di queste sue quindi cose. Quindi deve cercare i finanziamenti. Sta cercando i finanziamenti, insomma sarà difficile, perché quello su Beethoven costò una cifra che lui ha versato quasi interamente ha fatto lui. Questo invece costa 10 volte tanto, insomma. Ma lui è molto interessato alla regia, tanto che molto spesso mi dice che va in tournée, così poi può permettersi una volta finita di lavorare finalmente al suo film. Insomma. E il discorso è che lui spesso e volentieri tra un disco e l'altro cita i suoi fiori particolari. Sì, è vero, anche i Rolling. Tra cui i Rolling, soprattutto i Rolling. Perché questo grande amore per i Rolling secondo te da parte di Battiato? Ma no, lui, in effetti io ci ho parlato su questo, dice io, lui non è un Rolling Stoniano, anche se amava molto Brian Johnson, certo. Lui dice che infatti era il suo nome. Era il suo nome. Lo colpì molto Ruby Tuesday perché era un pezzo poco Rolling, secondo lui, perché era un pezzo classico, una vera ballata, un po' romantica, e quindi lo ha colpito questa sorta di pezzo un po' inusuale, lo ha voluto omaggiare nel suo disco. E in effetti poi è vero, ma fino a un certo punto, perché se poi tu conosci bene i Rolling, ci sono molte ballate delicatissime, certo, da Con le mie lacrime, appunto, a Lady Jane, ma anche in dischi più recenti. Con le mie lacrime in italiano. Sì, che loro cantarono anche in italiano. Certo, e anche in greco. In greco? Certo, anche in greco. Oddio, mi stai dicendo una cosa che non ho mai saputo. La versione anche greca. Io non ce l'ho, però io ho quella italiana, Con le mie lacrime, c'è la versione anche greca. E questa adesso mi hai dato un colpo, io l'ho letto da qualche parte, c'è anche la versione greca di Come le mie lacrime. Però non si riesce a trovare da nessuna parte, quindi evidentemente... questa è una cosa non... Io ce l'ho, il singolo ce l'ho a casa anch'io. Il singolo ce l'ho anch'io. C'è anche te, storico quello. Quello vale moltissimo, io non lo venderò mai, ovviamente. No, neanche io, sempre là. Con le mie lacrime, l'ho comprato a pochi soldi una volta. Pensa, e adesso vale tipo, mi pare, 1.000-1.500 euro. Bellissimo. È un pezzo scritto per Marianne Faithfull. Per Marianne Faithfull, esatto. Che era un'icona. Sì, era assolutamente un'icona. Oltre ad essere la donna di Mick Jagger, sì. Venne anche a Sanremo. Certo, venne anche a Sanremo. Una bellissima canzone, secondo me. Vero. Che era, non so, ricordo, tipo C'è chi spera. Sì, C'è chi spera, esatto. In coppia con Ricky Maiocchi. E una volta si faceva così. Ricky Maiocchi era un altro rocker, decisamente bravo. Uscito dai Camaleonti, ha fatto una carriera solista. Non forse non è stato capito, ma era bravo. È vero, era molto bravo, era molto avanti. Molto avanti. E quindi, ecco, lui l'ha voluto omaggiare con quella canzone in particolare, che non so quanto sia un Rolling Stoniano, per cui il rock, tutto insomma, i Rolling sono un po' l'anima rock, no? Sì, del pop. È vero. E mentre lui forse non è molto rock personale. E Arturo Stalteri, che li ha visti a Madison Square Garden? Io l'ho visti 2000 volte. L'ultima volta che li hai visti? L'ultima volta li ho visti a Dublino. A Dublino. Allo Slane Castle. No, l'ultima volta, 2 anni fa, nell'ultima tournée. Che hanno fatto? Sono ancora loro oppure no? Sono sono ancora loro al massimo. Guarda, devo dire solo una cosa, io li ho visti solamente un po' in difficoltà a Milano, quando hanno riaperto il tour dopo che Richard era caduto dall'albero. Aveva cercato la palma. Sì, esatto. Così, aveva cercato la palma. E lì li ho visti in difficoltà, nel senso che Richard non era in sé, perché so che lui ha avuto per un sacco di tempo delle amnesie dopo quell'intervento, che è stato molto più delicato di quello che si è detto. Però poi si è ripreso alla grande. Io le ultime volte che l'ho visti a Lione, a Roma e a Dublino, ed erano in gran forma, anche se lui si è ridimensionato, nel senso che lascia fare molto più a Ron Wood, quindi fa i suoi interventi, i suoi riff meravigliosi, però poi le parti più complesse le fa Ron Wood. Ma la cosa che ti stupisce è Mick Jagger, che è ancora una verve incredibile, che sembra un ragazzino sul palco, è una certa età anche lui, è a 66 anni, appunto. Quindi io speravo in un nuovo tour quest'anno, ma pare che invece non abbiano nessun senso. E perché i Rolling non si sono mai sciolti, secondo te? Perché li lega assieme sta roba? Lì pare che sia Richard la vera anima dei Rolling, nel senso che Jagger ha sempre pensato di voler fare il solista, poi non ha avuto mai grande successo. No, esattamente no. E Richard si era sempre ricordato che loro erano un gruppo, che la loro forza era Rolling Stones. E poi lui ha detto che se non vive sul palco, ogni volta che finisce un tour lui si sente solo, proprio si sente questa solitudine. Per cui penso che lui sia stata sempre la molla, ed è lui che li sta riportando in studio adesso per il nuovo disco. Io ricordo di avere un 45 giri in cui in italiano erano spiegate per le ragazzine dell'epoca i 4 o 5 connotati della band. Brian Jones era così, Keith Richards era così, le caratteristiche. E le caratteristiche primordiali della band. Una volta si usava anche quello. No, è vero, ma lui dice sempre: dice Mick mi ricorda che io sono una rock star. Io gli ricordo che lui è un musicista. Esatto. Io penso che l'ho trovato meraviglioso di Ronnie è Wild Horses. Wild Horses, grande ballata. Stickfinger fatto da Andy Warhol. L'idea geniale di Andy Warhol, questa cerniera, questo disco. Hanno chiuso con la Decca e hanno inventato un'etichetta con Stickfinger. Hanno cambiato anche il loro suono. Hanno cambiato tutto, esattamente. Ed è un disco che ha inaugurato una nuova epoca degli Stones. E Exile on Main Street, no? Exile on Main Street, che ora uscirà con 11 inediti. Esattamente, con un'etichetta deluxe, con un formato deluxe. Io aspetto veramente con grande ansia. C'è qualche altro che aspetta così. Però uscirà a maggio. Esatto. Tocca aspettare fino a maggio. Però faremo una grande puntata su Exile on Main Street. Penso lo meriti, perché praticamente un terzo disco esce insieme al doppio. Dicono che sia, non so, i critici, molti critici. Tu sei un critico, puoi giudicare se ho detto una cosa giusta. Il miglior disco di Rolling in senso assoluto, lo hanno definito una sorta di enciclopedia del rock e del blues, cioè lì c'è tutto, in quei due dischi c'è veramente tutto. Non capito al massimo. Non capito all'epoca neanch'io rimasi colpitissimo da Exile on Main Street, l'ho capito qualche anno dopo, sì. Io ero più per Sticky Fingers, per Let It Bleed, per Backers Bank, insomma i dischi precedenti. A me piaceva molto Aftermath. Aftermath, bello. A me piaceva quel periodo, perché c'era Brian Jones. Il periodo Brian Jones. Mi piaceva Brian Jones? È il periodo più bello, non secondo me, dubbio, sì. L'invenzione arriva da là. Poi sono stati bravi, hanno costruito ancora, però le genialità era solo partiva. L'idea dei Rolling è partita da Brian Jones, dobbiamo sottolineare. Lui era già famoso come Elmo Lewis. Esattamente. Lui che li ha presi, pare che li stipendiasse all'inizio. È vero, lui... ho letto anch'io sto discorso qua. Poi forse ce l'avevano con Poi il discorso è cambiato. Dovremmo avere un pezzo dal disco, vero Michele? Ok, sentiamo il pezzo dal disco e poi concludiamo questa bella cavalcata. Cosa dici, Arturo? Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, beh, abbiamo finito veramente adesso, sono le 20, 24, 27, abbiamo finito questa cavalcata bellissima. Una cosa molto importante che dobbiamo citare: tu lunedì, oltre ai concerti che fai sabato a Ferrara, sì, domani a Ferrara e poi a Massa domenica, e poi da lunedì comincia un nuovo programma su Rai 3, Radio 3. Su Radio 3 un programma di musica classica. Benissimo. Ma non solo, che si chiama Primo Movimento, infatti alle 9:30 del mattino, in cui sono tutte novità discografiche classiche, però andiamo anche così a curiosare fra le musiche non né pop né classiche. Questo è appunto un genere crossover di frontiera, un po' di jazz. Hai già una scaletta predisposta? Sì, possiamo dare un'anteprima, possiamo vai con l'anteprima. Andiamo dai quartetti di Boccherini a di Cherubini, scusami, un'incisione della Decca nuovissima, a un disco di Oscar Peterson che rilegge Frank Sinatra, che uscì già negli anni 50, ma ora è stato ristampato con 10 inediti. Quindi un'edizione deluxe. Un'edizione deluxe molto bella, tra l'altro col suono molto ben curato. Insomma, ecco, partiamo così, poi vedremo quello che succederà in seguito. Quindi un bel percorso. Tutti i giorni? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ci alterneremo in tre conduttori, un mese per uno, e quindi... Chiaramente sempre in diretta. In diretta, rigorosamente in diretta. Benissimo, come qua, come stasera. Come stasera. 24 e 28. Grazie al grandissimo Michele Tosò, a Roberto Badi che ha curato le telecamere, ad Alberto Prisco che è il coordinatore artistico, a Vannuccio e a Nino che ci ha portato materialmente Arturo, e grazie ad Arturo Stalteri per questa bella cavalcata fino alle 24 e 30. Adesso ci saluti con un notturno, Arturo. Sì, un notturno dal mio disco, questo in do minore è notturnissimo, perché questa melodia l'ho sognata di notte e la mattina me la sono ricordata e l'ho fatta diventare poi un pezzo, ovviamente con qualche sviluppo. E grazie anche ad Agostino, buonanotte a tutti, la prossima settimana, e la prossima settimana avremo un gruppo rock di Padova. Ciao, grazie. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock.